sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Arrivo, Enzo, un attimo! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. 90 minuti di Tutti convocati e poi Enrico Ruggeri, 800 24 0024 è il vostro numero verde, Giorgio De Luca invece è mio autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. Se è chiuso il mercato io voglio le vostre pagelle. Ragazzi, sveglia, poi le chiedo a Pardo, le chiedo ai nostri ospiti. La Juventus prende Matri al posto di Giovinco, Sturaro e De Ceglie. Sturaro è un buon acquisto, ma è passato quasi sotto silenzio un affare importante la Juventus. Oggi la Gazzetta ha affibbiato in prima pagina un senza voto. Io credo che Rugani, giocatore rivelazione dell'Empoli, molto conteso e su cui l'Empoli aveva messo un veto per il passaggio immediato a 3,5 per la metà, sia stato un bel colpo per la Juve. La Roma fa una squadra da atletica leggera, da staffetta 4%, Dumbia al posto di destro, poi Ibarbo. L'ultimo minuto è stato quello per Spolli, con cui ha cercato di dare una giustatina alla difesa. Inter e Milan hanno comprato praticamente una squadra in due, cioè 11 giocatori più Mancia. Come sapete, Podolski, Cecchieri, Santone, Brozovic per l'Inter, che all'ultimo minuto non ha chiuso per Ledesma come si diceva o si pensava, ma soprattutto non ha chiuso per Rolando, che è finito, indovinate un po' dove? Ai confini dell'impero, una squadra di buon nome ma ai confini dell'impero, all'Anderlecht. Il Milan, destro Bocchetti, Antonelli, Paletta, Suso, Cerci, Muñoz per l'anno prossimo, avalla Sampdoria fino a fine stagione, poi scade il contratto e andrà al Milan. Non ha chiuso invece il Milan per Boselli. Il Napoli, un mercato di grande equilibrio, con due giocatori estremamente funzionali alla causa. A me piace molto il mercato del Napoli, che non si misura a chili ma si misura a impatto sulla squadra. Gabbiadini e Strinic sono due giocatori di impatto sul Napoli ed è già stato dimostrato. La Fiorentina ha perso Cuadrado ma ha preso Salah poi alla fine, insieme a Diamanti, Girardino e Rosi, e tutto sommato a me piace, mi sembra un buon mercato. E poi c'è un giocatore, ragazzi, che tutti potevamo permetterci: Pozzi passa dal Parma al Chievo per euro 1000. Potevate prenderlo anche voi per farlo giocare a calcetto il giovedì sera insieme ai vostri amici. A proposito di calcetto, poi vi rivelo una formazione strana che Pardo oggi ha compilato su un giornale. Prima di convocarlo, di convocarvi, 800 24 0024, anche se in realtà convocati lo siete già, voglio farvi sentire qualcosa. Allora, ieri incontro, partiamo da Moggi? Va bene, Giorgio De Luca dice di sì, allora io eseguo. Allora, ieri questo incontro in un'aula di tribunale tra Moggi e Moratti, stretta di mano con sorriso, e poi Moggi. Noi abbiamo rievocato, per esempio, quando l'Inter ci ha dato Cannavaro, ma no? Non dico capolare, tutte queste cose, no, perché tra amici. Scherzi a parte, mi dica una cosa che vi siete raccontati. Tanto chi ha dato la mano a chi? Ma senti che domanda. È importante. Che domanda, chi ha dato la mano? Ma c'è gente che ci guarda. Lo so. Allora, ma quindi è pace? È pace? Ma io non ho mai fatto la guerra a nessuno. Quindi pace normale, ho fatto pure un pentorello. Allora, Moggi ha detto queste cose e poi c'è anche un tweet degli ultimi minuti, abbastanza controverso, non si capisce bene se reale o figurato, in cui Moggi ha scritto o avrebbe scritto: sì, mi ha dato la mano, ma poi me ne sono lavate subito dopo. Altra voce, altra voce, altro giro, altro regalo. Questo, allora, Conte, cosa ha detto ieri a Tiki Taka? Facciamo fatica a sfornare talenti, perché prima comunque riuscivamo a crearceli in casa, no? In più c'era anche la disponibilità economica da parte delle società. C'era questo binomio che riusciva a permettere al calcio italiano di essere in vetta, no? E quindi a spingere anche i campioni a venire da noi. Va bene, Conte ha detto queste cose, ma la notizia di oggi è che il famoso stage di cui si è tanto parlato, blaterato, non si farà, perché nessuno vuole, nessuno è d'accordo, tutti sono contrari, e dunque niente stage per la nazionale dal 9 all'11 di settembre, con buona pace di Antonio Conte. Poi c'è una Coppa Italia che sta diventando tremendamente importante, forse anche troppo importante rispetto ai piani della vigilia, per molte grandi o ex grandi, Roma compresa, ma oggi hanno parlato Benitez e Mancini, che si troveranno l'un contro l'altro armati. Sentiamo Benitez. Io dell'Inter ricordo due titoli e tanti amici, questo è un bel ricordo. ISO, che è una società fortissima, importante a livello internazionale, con i tifosi che vogliono vincere tutto, come tutti i tifosi al mondo. Allenatore di livello, di prestigio, credo che nessuno può discutere questo. E una squadra che nel campionato non sarà facile per loro arrivare al suo obiettivo, questo significa che saranno anche più pericolosi nella Coppa. Beh, Roberto Mancini, che era molto atteso, ha parlato pochi minuti fa soprattutto di Icardi e dei suoi atteggiamenti sopra le righe di Reggio Emilia, sapete, la maglia ai tifosi, la maglia ributtata, gli insulti, eccetera, eccetera, eccetera, tutto quello che ne è conseguito. Mancini: quello che gli ho detto è che non doveva andare sotto la gradinata, perché è normale, quando uno perde è arrabbiato, siamo tutti arrabbiati, quindi quando uno è arrabbiato può fare e dire delle cose che, no, che poi non avrebbe fatto o detto, quindi non sarebbe dovuto andare e capire anche l'amarezza dei tifosi. Questo credo che, insomma, Icardi è giovane, credo che imparerà anche questo, ma no. Poi se verrà multato, probabile che la società prenderà dei provvedimenti in questo senso, non so. Questo era Mancini su Icardi. Prima del traffico vi do una statistica, la lancio così a tutti i tifosi del Toro, soprattutto ai contestatori che io continuo a non comprendere nei confronti di Cairo, soprattutto nei confronti di Ventura. Ebbene, c'è Roberto che scrive per il Toro un bel 7, voto di mercato, Toro che aspettava una grande punta, alla fine ha preso Maxi Lopez, però la statistica è questa: dal gol subito da Pirlo all'ultimo istante, all'ultimo respiro del derby, il Toro non ha più perso e ha incassato 16 punti nelle ultime 8 partite, miglior score della Serie A nelle ultime 8 gare. Traffico. La Sampdoria stava per dare Bergessio alla Lazio e poi prendere Ederson, solo che Ederson ha rifiutato il trasferimento alla Sampdoria ed è saltato anche il passaggio proprio di Bergessio alla Lazio. È saltato Bergessio? Tutti convocati. Ti aspetti di giocare già domenica a Torino e quali sono le tue condizioni? Sì. C'è Quagliarella che controlla, Quagliarella! Che bellezza! 3-0 Torino! Fabio Quagliarella, tripletta! Shining light, rocket fly. Mi devo sfogare in qualche maniera, perciò io dopo la partita con la Lazio ho detto che può succedere una volta, due volte sono troppe, bisogna prendersi le responsabilità e bisogna fare qualche provvedimento. Come prima vorrei chiedere scusa a tutti i nostri tifosi per la partita che abbiamo fatto oggi e sicuramente io sono primo responsabile. I miei giocatori si devono guardare bene dentro e farsi un bel esame di coscienza. Oggi mi sono vergognato. Eto'o è comunque un giocatore che ha vinto tutto E come ho detto, speriamo che ci dia una mano e quando sarà pronto, con la sua voglia di vincere, con la sua classe, ci aiuta, ma che non deve diventare una distrazione, ecco. Ma non c'era niente da chiarire! Non c'era niente da chiarire, intanto c'è il caso Eto'o che a me affascina moltissimo. E Luigi Pardo, mio fratello di microfono, ciao. Come va? Bene. Guido Bagatti invece è un nostro grande amico. Ah, però è un grande amico anche del signor Cruciani. È stato evocato anche ieri. Ciao Guido. Eccomi qua, buongiorno a ciao. Tutti. Senti, oggi hanno fatto pace, almeno pare. È arrivato Eto'o, è arrivato l'ospite di Pardo ieri sera, e cioè Ervi Peretta, alias presidente della Sampdoria Ferrero. Si sono parlati, avrebbe fatto allenamento, tutto tranquillo. C'è qualcuno che dice, vabbè, adesso rescinde il contratto, va in Cina, va in Giappone, va dall'altra parte del mondo, eccetera, eccetera. Io dico, arriva una superstar e sono subito capricci. Ma dico anche, e lo sai bene, per note frequentazioni dello sport americano, le superstar le devi anche saper gestire. Guarda, io ti ho detto una cosa. Ho avuto un brutto sentore alla conferenza stampa di Mihajlovic molto prima che tu vestisse la maglia della Sampdoria, quando Mihajlovic ha detto Eto'o deve arrivare però deve calarsi in una società con un aspetto umile, deve stare al suo posto, non deve pretendere questo, cioè come se Mihajlovic mettesse le mani avanti perché qualcuno e quel qualcuno possiamo sapere, capire tutti che è un suo collega, gli avesse detto che il personaggio è uno che fa la prima donna, che comunque vuole determinate cose, vuole giocare minuti importanti, cioè non viene ad imparare, anche perché non deve imparare, ma viene a fare... Non sono tutti uguali, eh? No, esatto, quindi Mihajlovic ha messo subito la mano avanti. Io lì, leggendo tra le righe le sue dichiarazioni, ho detto, ahia, secondo me c'è qualcosa che non va, perché per altri, d'accordo che Muriel non è Eto'o e che Muriel è infortunato, però per Muriel Mihajlovic ha avuto solo parole, direi, eccellenti, ha detto, viene un buon giocatore, sicuramente ci aiuterà, via dicendo. Questo mi ha fatto un po' così, stare con le antenne alzate, ed è poi è successo più o meno quello che mi ero immaginato. Se lui scappasse perché non volesse fare la doppia seduta era abbastanza difficile da prevedere, però ci sono un po' di problemini lì dentro. Scusa, Pierluigi, ieri sera hai fatto fatica a tenere a bada, il professor Ferrero, già ignia è fatta, eh. Era impossibile, era impossibile. Scatenato. No, ma che impressione ti fa questo caso Eto'o? Che poi tra l'altro il presidente è fiorito alla notizia che ha ricevuto lì in diretta, secondo cui niente, allora Berghessio te lo tieni. Sì, no, fra l'altro posso dire una cosa che... Dilla. Già ieri sera mi erano, ho fatto poi dopo la puntata dei check, il povero Ederson in realtà no, non rispondeva al telefono, ma no, dai. No, ma guarda, ho avuto modo di parlare, di capire, forse alla Sampdoria ci sarebbe anche andato, è chiaro che se lo chiami alle 21:30 sì. di una sera in cui è in vacanza, di giorno libero a un'ora dalla fine del mercato, la possibilità che non si riesca a fare tutto subito ci sta, insomma, vero, della vita. Vero, però questo non sta giocando nella Lazio, non gioca un minuto, non lo mandano alla Viterbese, lo mandano alla Sampdoria. No, ma certo, ma il calcio di oggi non è che devi avere tanto bisogno. Vedi, una società che ha appena preso il suo Muriel è quella che spende di più in un bellissimo posto come Genova, abbiamo la maglia più bella del mondo, prendi non sto discutendo la scelta, sto dicendo che è stato veramente un fatto di tempistica, cioè c'è questo vizio del calcio italiano di ridursi, forse dell'Italia in assoluto, di ridursi all'ultimo secondo utile perché bisogna cercare di trattare e tirare su tutto. Insomma, da quello che mi risulta, Ederson ha ricevuto una telefonata alle 21:30 di ieri sera e probabilmente non l'aveva neanche vista. Cioè, di questo stiamo parlando. Se avesse avuto qualche ora in più sarebbe oggi un giocatore della Samp. Però Piero, il mercato è aperto, no, tu sai che dovresti andare via. E soprattutto noi ci siamo liberati di Berghessio, che visto come gioca magari la Lazio probabilmente sarebbe rinato da noi, è meglio che non mettete in campo, perché è veramente un problema. È arrivato con un'aspettativa, diciamo, tutti aspettavano qualcosa di eccellente, aveva giocato con Mialo da Catania, no, se non sbaglio, e poi è venuto un giocatore che è lontano cugino di quello lì, uno che proprio non c'entra nulla. Perché è uscito che era fatto! Sì, è saltato, pare sia saltato. Vabbè. Non lo sapeva neanche lui. Non lo sapeva. Il momento più bello è stato in assoluto, perché dopo questa cosa, dopo che ha detto, ah vabbè, ah, cioè, tipo pochi secondi dopo stava lì col telefonino di soppiatto, parlava col telefonino e diceva, veramente è saltato, non so se con Osti o con Viganò, comunque con qualcuno, per avere qualche notizia in più. Mi dispiace aver dato questa notizia in diretta. Lui, poi ci ho parlato anche dopo la trasmissione, in realtà era uscito alle 23 convinto che la cosa fosse stata fatta, insomma, dal punto di vista della Samp e della Lazio era stata fatta, è mancato quest'ultimo tassello. Ma ripeto, se uno la trattativa se la inventa alle 21:40 del giorno, dell'ultimo giorno di mercato, insomma, ci sta che salti, dici, la possibilità che salti esiste, però il fatto che la Sampdoria dovesse cedere perlomeno una delle 5 punte, adesso abbiamo davanti, siamo la squadra potenzialmente con più gol al mondo, in confronto il Manchester City è una squadra che impallidisce di fronte alla Sampdoria, il Barcellona non è niente, abbiamo veramente il massimo possibile, bisogna accenderne uno e arrivare in effetti, come dite, alle 21:30. Ma dall'altra parte il calciomercato ieri sera, guardavo in televisione le ultime battute, gli ultimi 10 minuti, è una barzelletta, questi che corrono con il contratto in mano, sembrava veramente un film di Fantozzi, con questi che correvano scivolando sulle scale, investendo le ossa, uno che prende la porta in faccia, una Vanzina, regia dei fratelli Vanzina. Senti, com'è stato vedere il Super Bowl con Cruciani, perché ieri abbiamo fatto outing, eh? Allora, io ho visto tutta la stagione con Cruciani. Sì. Dunque, intanto si addormenta spesso sul divano, russando. Sì, russando, poi, dando fastidio, sì. Esatto, poi mangia e beve tutto quello che uno ha in un frigorifero. Sì. E sul Super Bowl a metà partita era stanco perché aveva fatto una mezza maratona a Portofino. Peraltro, ma che distanza conduce il signor Cruciani? Ma che vita è? Tra l'altro era una mezza maratona a Portofino, poi si addormenta sul divano guardando il Super Bowl. Ma non lo riconosco più. Una donna bellissima, quindi solito. Del nord-est? Dell'estremo nord-est. La mia preferita in assoluto. Sì, ho capito. Testa di serie numero uno. La salutiamo. Comunque al di là della presenza ondiva di Cruciani, Guido, un gran Super Bowl è uno dei più belli di sempre. Il rammarico, visto che siamo con il mitico Pardos, che Mediaset non l'ha fatto. Rammarico che Mediaset quest'anno non abbia ripreso i diritti. L'anno scorso un bruttissimo Super Bowl, ha fatto dei numeri straordinari, quasi 500.000 persone all'1:30 di notte, quindi tantissimi ascolti, era da riprendere, perché questo Super Bowl è venuto fuori una partita clamorosa, la più bella di tutte, grazie anche al fatto e anche a un errore talmente incredibile da parte di professionisti di uno sport che è tutto basato sui calcoli, numeri e tutto quello che ne viene di conseguenza, talmente incredibile che ha dato all'imprevedibilità della natura dello sport ancora una volta meraviglioso, certo. Umanità allo stato puro, perché è giusto che si vedano anche questi errori. Tom Brady il più grande di sempre, io sono contro i paragoni epocali, ma Tom Brady il più grande di sempre come quarterback, i numeri direbbero di sì. Io credo che il più grande di sempre sia stato Joe Montana. Se la giocano Dan Marino è il più grande di sempre, che non ha mai vinto niente, ma ha mai vinto un Super Bowl. Quindi il braccio più potente Dan Marino, Joe Montana, Terry Bradshaw, che ha vinto 4 Super Bowl con i Pittsburgh Steelers. Molti se lo dimenticano perché il football degli anni 70 inizia anni 80, però comunque era uno che faceva la differenza. Però forse nessuno di loro aveva una moglie come Gisele Bündchen. Questo sì, ovviamente aiuta, però chiaramente Tom Brady è un fenomeno. Noi molte volte abbiamo calciatori che vengono più ricordati per le mogli che per come toccano la palla, in questo caso abbiamo un vero e proprio fenomeno, che poi è anche una super gnocca accanto quando va a terra a casa. Grazie Guido. Il suo braccio destro. Va bene ragazzi. Ciao Guido, ciao, grazie, sempre un piacere. Un abbraccio e forza Doria sempre, comunque, mi raccomando. Bagatta! Forza Sampdoria! Ti faccio fare la presentazione! Forza Sampdoria! Senti, ragazzi, ascoltatori, dopo? Che dite? Quando vuoi, qua no, no, io guarda, io eseguo materialmente, io, biecamente quello che mi dicono. Io, facciamo, c'è la borsa adesso, oggi c'è la borsa, poi abbiamo già un sacco di ascoltatori. Solo buone notizie, adesso la borsa 8, e poi gli ascoltatori, 24, dai. 0024, vabbè, dai, borsa. Questo è serio che c'ho Stampelli che mi ride davanti. Convocati. Io amo Cassano, l'ho sentito anche oggi. Ci siamo cantati una canzone. È bello sapere quale canzone. Tu lo sai, Pierluigi? Eccolo. Quale canzone ha cantato a Cassano? No, non lo so. Non te l'ha detto. Non l'ha detto. Potrebbe essere. Cassano, andiamo piano. Serime, Cassano, andiamo piano. Io voglio sapere la canzone. Guarda, adesso mi è venuta la fissa. Voglio sapere che canzoni si sono cantati al telefono Cassano e Ferrero. Oggi è il 2 o il 3, secondo te? Oggi è il 3, vero? 3 di febbraio. 3 febbraio, sì, no? Volevo vedere se eri attento. Sì. Sono attento. Franco, provincia di Trento, anche lui è attento. Buongiorno. Franco da Trento. Buongiorno. Sei proprio attento. Sono la Madonna di Campiglia, buongiorno, salve Paolo, salve Gina. Oddio, la 3-3. La Predalago. La Predalago Lambino. Lambino, Predalago. Spinale, Grosté, via. Grosté non mi piace molto, piace più lo spinale, se devo essere onesto. Ecco, beh, ma allora sei bravo a sciare, perché lo spinale è già più complicato. Ero bravo quando avevo ancora i crociati, però bravino, insomma. Ma il Grosté invece lo diciamo per chi non conoscesse, è questa specie di panettone abbastanza pianeggiante sul quale si impara, esatto, tutte queste piste parallele, un po'. Sì, diciamo, ma poi no, adesso lì è il paradiso dello snowboard, hanno fatto Luxus Park dove sono salti, roba del genere, e gli snowboardisti lì si divertono molto. Però posso dirti che il mio cuore è a Porta Vescovo, senza che ti offendi? Vabbè. Posso dirlo. Come si dice a Roma, c'è stato. Pensavo che fosse al rifugio dove fanno la polenta e la salsiccia. No, sono in autostrada, sto andando a Riccione. Cambio dal mare alla montagna, facciamo un mare montagna. Non male. La famiglia è lì, io sono una costa di montagna. Dimmi, Franco. Volevo parlarvi del mercato della Juve, strano. Allora, la Juve cerca una punta e compra Battery. Poi c'ha due giovanotti di belle speranze che sono Immobile e... Ma Immobile non ce l'ha più. No, esatto, appunto, aveva il 50%, c'aveva. Sia di Immobile che di giocatore che è andato al Napoli, se non mi viene il nome. Gabbiadini. E se li fa portare via. Se per questo anche di Zaza e Berardi, comunque sono cose che si faranno. Ma quelli sono ancora in proiezione futura, ma secondo me Gabbiadini è il nuovo Gigi Riva, fortissimo, guarda. Giocatore fortissimo. E poi è difficile pescare il jolly tutte le volte, il Pogba delle situazioni. Adesso vedremo questo Otello come sarà. Però è stato un mercato un po' strano, cerca una punta, ma secondo me la metà compra quello. Beh, secondo me nemmeno troppo strano, perché Gabbiadini è andato a Napoli ad essere protagonista, lei aveva bisogno di un attaccante di riserva per sostituire Giovinco. Poi ha preso Sturaro, che è un buon innesto, e soprattutto ha chiuso l'affare a Rugani, che era abbastanza spinoso, anche se arriverà alla fine della stagione, ha risolto questa comproprietà. Non mi sembra malaccio. No, non mi sembra malaccio, è vero che alcuni giocatori della Juve che si sono fatti strada, si sono fatti onore, poi non sono stati ripresi, e può esserci questo tipo di sentimento, no? Questa sensazione che potevano essere utili e invece nessuno li ha considerati. Però è anche vero che comunque innanzitutto la Juve fa un lavoro in anticipo sui giovani di un certo tipo, sì. E di questo lavoro alla peggio comunque ci sono i frutti economici della vendita delle comproprietà, come nel caso di Immobile, di Gabbiadini. È chiaro che la Juve ha un'asticella molto alta, per cui pur io onestamente, pensando a Immobile e a Gabbiadini, dico, ma perché non possono giocare nella Juve, no? Perché non... comunque sono giocatori che vanno per giocare, no? Però ci può stare, ci può stare, comunque l'attacco della Juve in questo momento ci sono delle gerarchie e ci può anche stare una valutazione di questo tipo, certo, insomma, quindi certo, io sono d'accordo. Il problema problema secondo me sono altre le società che si muovono in maniera abbastanza sconsiderata. Ecco, la cessione di Bonazzoli da parte dell'Inter, anche se c'è un diritto di recompra, per carità, a 12 milioni proprio alla Samp. Cioè, Bonazzoli, tutti quelli che conosco che si occupano di calcio giovanile dicono che è il più forte 97 che c'è in circolazione. Non lo so, magari l'Inter ha avuto l'esigenza di fare cassa, ma d'altra parte era stato dichiarato con largo anticipo: dobbiamo fare cassa, e quindi i nomi sono quelli. Guarda, l'Inter anche ha fatto, monetizzi anche Bonazzoli a 4,5. L'Inter ha fatto un mercato proprio qui e ora. Sì, come se non esistesse un domani. Ha fatto un mercato che tutto sommato è abbastanza strano, perché non è che sia in corsa per vincere il campionato, quindi non è che dici faccio uno sforzo subito anche a costo poi di pagare perché la vita è adesso, come canta Baglioni. Sì. No, anche se tutto sommato, Pier, Shaqiri, Santone, Brozovic possono essere anche funzionali a una qualche ipotesi di progetto. Sì, quale sì, che Podolski sia, non Podolski meno, quale che sia, non lo so, però questi possono essere funzionali anche per ragione anagrafica a qualche tipo di progetto. Massimiliano da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie della convocazione. Dica. Io vabbè, oltre al mercato della Juve con il quale non sono d'accordo perché non ha senso levare Giovinco per prendere Matri, ma io sono un vedovo di Conte, perché con Allegri non c'è più gioco, è un sonnifero la partita, cioè preferisco vedere l'Empoli. Non sono d'accordo. Come? Anzi, secondo me dal punto di vista del gioco la Juve di Allegri non è inferiore a quella di Conte. Udine è stata sicuramente una partita da pennica, su questo non ci sono grandi dubbi. Ma può capitare, eh? Però può capitare, insomma, io non sono d'accordo. Io neanche. Io penso che Allegri stia facendo grandi cose, appunto. Conte è stato un grandissimo allenatore, un grandissimo giocatore. Mi ricordo quest'estate ho fatto nel mio piccolo in questa radio una campagna per averlo in nazionale, perché credevo che fosse l'uomo giusto, lo vedo ancora per la nazionale il migliore che potevamo schierare, in qualche modo l'ha già dimostrato, ma Allegri è stato un ottimo sostituto e vedi come poi il calcio vive di strane etichette, poi, no? Ma poi sta gestendo la stagione con grande intelligenza, perché tu se spacchi l'anima ai giocatori ogni santo giorno, ogni santo minuto per raggiungere traguardi in fondo simbolici come quello dei 100 punti, è chiaro che puoi vivere così sulla corda e sul filo del rasoio a tempo determinato. Allegri sta giocando. Le carriere secondo me si valutano sulla quantità, su dei fatti oggettivi. Allora, Allegri fatti era oggettivi. Prima dell'inizio della stagione, prima che arrivasse Mancini, l'unico allenatore in Italia ad aver vinto lo scudetto. Uh-huh. È comunque andato rifatto, insomma, sì. Oggettivo, no? Un merito ce l'avrà avuto anche lui in questa cosa qui. Lo stesso discorso riguarda Mazzarri, per dirti, no? Mazzarri adesso sembra improvvisamente diventato un fesso. Mazzarri è uno che in carriera ha sempre fatto bene prima dell'Inter. Anche dove sì, comunque, no? Dove comunque non dimentichiamoci che prima di lui c'è stato Stramaccioni. Non che Stramaccioni non sia bravo, ma Stramaccioni ha finito per la prima volta l'Inter fuori dall'Europa dopo 20 anni. Quindi voglio dire il sesto posto dell'anno scorso, quello che è stato, insomma, la qualificazione all'Europa League, deve essere vista anche in questa ottica qui, comunque di una squadra che veniva da una posizione ancora peggiore. Adesso va via e fino a questo momento chi lo sostituisce sta facendo peggio di lui. Credo che sia abbastanza contento laddove si trovi il signor Mazzarri, che convocheremmo volentieri, casomai si stesse ascoltando. Ma io ci ho parlato, sinceramente lui in questo momento non ha voglia. Però è anche ora che esca, quasi ora. Ti dico la verità, ieri onestamente dopo la sconfitta di Mancini sarebbe stato anche poco elegante. Sono d'accordo. Io credo fra un po' Mazzarri qualche sassolino dalle scarpe posso tirarlo fuori, secondo me anche accettando, ma guarda, gliel'ho detto anch'io, anche facendo mea culpa, perché poi alla fine nel calcio di oggi anche la comunicazione è importante, anche proporre ai tifosi e ai media, ma anche spiegare le tue ragioni, perché tutto sommato non è che non si può solo prendere nella vita. Senti Pier, abbiamo un ospite adesso, facciamo un salto sulla ruota della fortuna. Io dico che per fare tornare questa ruota della sfortuna che abbiamo addosso bisogna spingere di più noi dall'inizio, i giocatori sul campo. Se uno fa il metro in più, questi due metri in più, o per dare una soluzione o per recuperare la palla dall'inizio, cose che facciamo sempre nel secondo tempo, allora sì, saremo molto meglio. oggi io parlo, ma quando uno non vince le partite, quando una squadra non vince le partite, non c'è niente da dire, bisogna solo essere zitto e lavorare e dopo vincere, perché è solo questo che ti dà dopo la possibilità di dire le cose. Se già hanno perso un po' di fiducia e che non sentono i nostri tifosi indietro di loro, allora può solo peggiorare la cosa. E io lotto con questa cosa perché i giocatori, anche se sono meno numerosi e che abbiamo perso alcuni importanti, sono ancora forti, e anche se ho meno scelte dall'inizio o dalla panchina, voilà, loro devono sapere che i giocatori danno sempre il 100%. Il signor Franco Tancredi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao per Luigi. Come stai, amico mio? Tutto bene? Piove. Qua nevica. Non ti lamentare. No, sei nato a Giulianova. No. Allora, adesso facciamo una valutazione. C'è sole. Al mare, no? Hai vissuto a Roma, Roma Sud, fra l'altro, possiamo, non diamo l'indirizzo, però insomma Roma Sud, quindi anche proprio la parte più calda della città. Roma è grande, da nord a sud, no, a parte le battute, qua c'è no. Oggi, Siamo con... Senti, sulla Roma che tempo fa? Pordenone. La Roma, purtroppo, io adesso ho ascoltato anche le parole di Garcia, così, certo, non è una Roma brillante, questo è innegabile, soprattutto ultimamente in casa sta facendo troppi pareggi, ha smarrito un po' quello che era il filo conduttore dell'anno scorso, quell'aggressività, quella intensità e soprattutto quel gioco che ci ha fatto vedere. Quest'anno penso che l'abbia fatto un paio di volte. Ci sono delle attenuanti, tipo tanti infortuni, ma finché sono traumatiche la cosa è da definirsi per la sfortuna. Sfiga. Ma quando è muscolare e soprattutto sempre sul solito muscolo, c'è qualcosina che evidentemente non è andato per il verso giusto. C'è da dire che Garcia, siccome io lo reputo una persona molto intelligente e soprattutto un grande allenatore, sa che in questo momento ha il polso della situazione, che la squadra non sta andando. E la cosa che è preoccupante è che di solito delle crisette così, avendo giocato, ce l'abbiamo avuto tutte, magari questa mi sembra un po' più lunga delle altre, quindi sì. La Roma, se io sono convinto che se riprende a macinare gioco, se riprende e ritorna a quello che era l'anno scorso, io penso che fino alla fine, certo non può più sbagliare, questo è poco sicuro, fino alla fine può ancora mettere in difficoltà la Juventus. Senti, Pier, sentiamo il traffico, poi torniamo a discuterne. Convocati. Grande in eleganza, avevo chiuso una domanda di Pardo per Franco Tancredi, me ne scuso. Sì. Pier. No, anzi forse avevi salvato, diciamo, gli ascoltatori da una domanda banale. No, volevo capire, a parte le battute, volevo capire se secondo te c'era una variabile invece legata ai carichi di lavoro, nel senso che poi la Roma non è stata brillante da gennaio in poi. Tu che frequenti, insomma, Trigoria, hanno caricato dal punto di vista muscolare oppure è un calo così? Guarda, Luigi, io penso che, non lo so, tornando un po' indietro, se quel 7-1 è stato devastante sotto tutti i punti di vista, magari ha minato le certezze che aveva questa squadra, compresi quelle dell'allenatore. La Roma purtroppo, adesso abbiamo detto, io non lo so perché a Trigoria in questi ultimi tempi lo frequento poco, però da quel poco che ho capito, che ho visto, è una squadra che soprattutto nel primo tempo le altre squadre gli sono superiori sul piano dell'intensità, della velocità, della rapidità, e quindi vedo una squadra che al secondo tempo poi riesce a fare veramente, magari a raddrizzare la partita. Non so se dipende questo da un fatto che hanno fatto più fondo, le squadre avversarie magari non riescono più a pressare come al primo tempo e quindi viene fuori la differenza anche tecnica. Potrebbe essere una cosa di questo tipo, cioè, perché il calo fisico globale non c'è, perché poi nel secondo tempo la Roma migliora, però forse non c'è la brillantezza, quindi si è lavorato molto più sulla resistenza che sull'esplosività. Secondo me tutto porta a questo ragionamento che hai fatto tu, io concordo in pieno, perché effettivamente vedi che le altre squadre, soprattutto nei primi minuti o il primo tempo, hanno una rapidità, una velocità diversa. Io adesso ripeto, non so neanche, me ne intendo più di tanto, però insomma l'evidenza è notevole, insomma si vede che i giocatori Non cambiano passo. Però è curioso come l'assenza di Gervinho si sente, prima o poi tornerà dalla Coppa d'Africa, con lui arriverà anche Dumbia, il nuovo acquisto, è stato preso Ibarbo, sono tutti scattisti. Sì, Dumbia è rapidissimo, è velocissimo, poi è adatto secondo me al tipo di gioco, al tipo di centravanti che vuole Garcia. E Gervinho anche, però bisogna vedere anche questa Coppa d'Africa, vabbè che Gervinho si è riposato due partite, però l'altro non era titolarissimo, Dumbia, però anche loro insomma sono stati a fare questa Coppa d'Africa, quindi arriveranno fino in fondo. Bisognerà vedere, certo che se la Roma non fa un cambio di passo, un cambio di mentalità, di strategia, bisogna cominciarsi non più a guardare avanti, ma cominciarsi a guardare dietro. Sì, sono d'accordo. Bisogna cominciare a guardare alle spalle di un Napoli che ha fatto, secondo me, un mercato estremamente funzionale nelle sue esigenze. Il migliore. Sono d'accordo. Migliore. Grazie Franco. Ciao. Grazie. Ciao Franco Tancredi. Sono d'accordo sul migliore. Il Napoli ha preso Strinic e Gabbiadini. Allora, io mi ricordo quando parlavamo di Cerci o Podolski e mi ricordo benissimo che dicevo il migliore è Gabbiadini, secondo me in questo momento, poi magari riesploderà Cerci o Prasa. Gabbiadini è un giocatore in questo momento, per quello che ha fatto nella prima parte della stagione, è il migliore dei tre, non ci sono dubbi, anche in prospettiva chiaramente con il discorso di età. E poi l'esterno che comunque era un tema e mi pare che il Napoli l'abbia risolto. Secondo me rimane una squadra con delle fragilità dal punto di vista difensivo, perché la coppia di centrali non mi fa impazzire. E chiaramente insomma il centrocampo, soprattutto visto che quasi sempre Benitez gioca 4-2-3-1, anche se ultimamente è diventato un filo più accorto, un pochino di spifferi li fa passare, quindi questo secondo me rimane il punto debole. In fondo anche contro il Chievo e contro il Genoa questa cosa si è vista, però anche Strinic sta dando molto, adesso torna anche Gulam, però Strinic mi è sembrato un altro acquisto. Strinic è un esterno soprattutto di grande tenuta difensiva, certo, è quello di cui ne ha quella visione. Senti, prima di andare, Daniele, provincia di Novara, Ugo, Reggio Emilia, Paolo da Verona, ci arriviamo subito. Certo. Mi dici questa formazione di calcetto che oggi è scritto su un giornale? Ah, questo so anche chi ti ha imbeccato. Comune amico, che salutiamo. Sì, comune amico, sì, che il signor albanese, sì, che mi ha anche chiamato. No, stavo finendo il pezzo ieri, c'era questa simpatica cosa di Mattarella, no? Di Mattarella palermitana interista, poi oggi è stata smentita, no? E quindi ho fatto una butad sulla tradizione. È stato smentito cosa, scusa, che interista? Non è, ma è interista? No, ma oggi non è stato smentito che è interista, è solo il Palermo. Aspetta, chi è che l'aveva scritto? C'era un tweet di Messina, forse? Sì. Lo andiamo a cercare. E vabbè, comunque insomma sì, che si ricorda a memoria tutte le formazioni. Sì. E questo mi fa particolarmente piacere, no? Un'anima pop del presidente, mi piace che ci sia, anche se chiaramente non cambia niente dal punto di vista del contributo che potrà dare alla nazione. E ecco, sì, Sebastiano Messina, ho già scritto, è ufficiale, il presidente tifa Palermo e non è un tifoso dell'Inter. Amala, ma anche no, questo scrive Sebastiano Messina. Sì. E quindi insomma ci fidiamo. Quindi serve un altro il calcetto con Fiorello, Cerasa, la Russia. Un altro siciliano interista. Non sarà difficile trovarlo. Sì, ma anzi, chiaramente è una captatio benevolenze nei confronti del mio amico Cerasa, neo direttore del Poi, ho scritto solo per questo, perché vorrei un rinnovo contrattuale ovviamente con le cifre, no? L'adeguamento, insomma, all'Aicardi, all'Aicardi. Comunque Fiorello, Cerasa, la Russia, Riotta, Mattarella, se non gioca il presidente, ne serve un altro, lanciamo un appello, palermitano interista. Non sarà Daniele che chiama la provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo solo dire riguardo al mercato dell'Inter, vi sentivo stupiti per la vicenda di Bonazzoli, ma sono cose che si sono sempre fatte in un'ottica di gestione, si fa così. Tu hai un ragazzo di buona prospettiva che ha 17 anni, non dimentichiamocelo, lo piazzi a cifre, adesso non lo so, si parla di 4 e mezzo, 4 e mezzo, benissimo, e ti garantisci di riacquistarlo tra 3 anni al doppio, al triplo, ma io ho sempre visto fare così. Se il giocatore esplode, ottimo, te lo porti a casa ad una cifra comunque. Dovrebbero essere 9. In genere 7-12, vabbè, insomma. E poi dopo non lo sappiamo, ma però la forma è quella lì, ma si fa così in gestione di un vivaio. Più il giocatore sì, giocare, tu ricordo, dici, fai giocare, lo mandi in un posto dove gioca e se poi esplode, pago l'esplosione, è questo il senso. Però, come diceva Pierluigi, è uno dei, insomma, dei giocatori più quotati in questo momento. C'è anche il prestito, c'è anche il prestito, esatto. Cioè, comunque voglio dire, va bene, insomma. Diciamo obiezione accolta, detto questo, insomma, mi sembra che il mercato sia stato un mercato la Finut. La differenza tra il prestito e questo tipo di opzione è che questa dà la possibilità di monetizzare subito, perché evidentemente c'era bisogno di risorse visti gli investimenti, ma insomma non mi dà una lettura del mercato del Milan, che ne ha presi 9, praticamente una squadra. Beh, il Milan secondo me ha fatto cose discrete, ha cercato di razionalizzare. A me Destro piace, sì, Bocchetti certo. Ci sono delle incognite, ovviamente, perché da un po' che non lo vediamo, però insomma, Antonelli pure è un buon acquisto. Antonelli è un buon acquisto, insomma, mi sembra che abbia dato una sistemata complessiva, che l'impegno ci sia stato. Qui io credo che sono stati decisivi i rapporti comunque di Galliani, sì, che così come lo critichiamo in questi ultimi anni, perché certamente dal punto di vista della lungimiranza il Milan non è il massimo, cioè fa soltanto investimenti di un certo tipo, però ecco, in quegli investimenti lì, che sono i classici last minute, il convincere il calciatore, lì il Milan rimane il numero uno probabilmente, o comunque tra le primissime per la capacità. Hanno 13 difensori senza coppe. Sì, no, ma infatti, ma non è che improvvisamente mi piaccia o la vittoria contro il Parma possa aver illuso più di tanto, però devo dire che nella capacità dell'andare a convincere i giocatori il Milan ha sempre ancora un suo potere e una sua forza dal punto di vista della lungimiranza. Molto chi bene. Chi ha suonato? Ah, è finita l'ora, Pier. Saluto. Ma che campanella c'hai da Milano? Ma che ne so io, anche questa è, così, questa è nuova. Ma com'era la campanella? Nuova. Ciao, del genere. Ciao, domani. Ciao amico mio, grazie per Luigi Pardo. Ugo da Reggio Emilia, Paolo da Verona, ci sentiamo subito dopo il GR, per favore non mi lasciate solo, eh? Dopo il giornale radio parliamo con calma. Tutti convocati and the Oscar goes to... Sì, adesso per il vostro gaudio abbiamo ancora mezz'ora, 90 minuti al giorno di Tutti Convocati prima di passare la palla a Enrico Ruggeri. Per il vostro gaudio avremo gli Oscar del mercato con Marco Belinazzo da Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Paolo da Verona, buongiorno, grazie. Buongiorno. A chi lo dà lei l'Oscar? L'Oscar del mercato? Sì. Non al Verona, purtroppo. Non al Verona. No, ma forse all'Inter, insomma, buoni acquisti sulle zone dove forse era più lacunoso. Sì, adesso sentiamo Belinazzo che ha idee diverse. Vorrei dire qualcosa sul Verona invece? Sì, prima ha chiamato un tifoso della Juve, sì, che diceva che con Allegri il gioco è piuttosto noioso. Ecco, ricordando i 10 gol in 4 giorni che abbiamo preso, che fanno malissimo, sembra proprio stonate quelle parole lì, insomma. Beh, col Verona quelle partite di Coppa Italia e poi di campionato sono andate come sono andate, però ne parlavo anche ieri con un suo collega di tifo, mi sembrano eccessive le critiche a Mandorlini, le voci intorno a Mandorlini. Il Verona sta facendo... Verona più debole rispetto all'anno scorso sta facendo il campionato che grosso modo deve fare per una salvezza tranquilla. Lì deve correre il Verona dopo una stagione meravigliosa come quella dell'anno passato con altri giocatori e che si era concluso in maniera diversa. Marco, l'Oscar all'Inter? Beh, no. Io punterei per il momento su altre squadre, anche se l'Inter ha un po' aggiustato la mira nel corso di queste settimane, no? Le scorse sessioni di mercato erano state appannaggio a mani basse, direi, di Walter Sabatini, sì, e della Roma, che aveva fatto oltre 70 milioni di plusvalenze, rinforzando per di più la squadra. No, quest'anno, per motivi diversi, diciamo, darei l'Oscar a tre squadre: al Napoli, alla Fiorentina che alla Roma. Alla Fiorentina naturalmente per l'incasso, per l'affare Quadrado, oggettivamente insomma 32 milioni più il prestito di Salah sono davvero un ottimo affare. Sì. Mi fanno pensare a un momento di transizione per quanto riguarda i Viola anche rispetto al progetto tecnico. Beh, senza dimenticare Girardino e Diamanti che sono arrivati a zero. Sì, appunto per questo, no? Arrivano Girardino e Diamanti, non mi sembrano frutto e parti di un progetto tecnico lanciato verso il futuro, quanto piuttosto di mantenimento. Vedremo comunque cosa faranno i Della Valle e soprattutto cosa farà Montella a luglio. Per quanto riguarda il Napoli, due operazioni fatte da Bigon e dal suo staff con largo anticipo, con un impegno finanziario grosso modo intorno ai 15 milioni, di fatto 12 milioni e mezzo per Gabbiadini e a parametro zero Strinici, due giocatori che non a caso hanno fatto assist e gol domenica. Certo. E quindi in quest'ottica mi sembrano insomma da premiare. Sono d'accordo. Per quanto riguarda la Roma, Sabatini era riuscito in un piccolo miracolo, anche perché sotto osservazione della UEFA, come sappiamo, per i conti non in regola della Roma, e aveva fatto due operazioni in entrata e in uscita di fatto a impatto zero, nel senso che aveva venduto Destro e Jedvai a 7 milioni più uno di bonus alle Leverkusen per circa 23-24 milioni, e aveva riscattato Yangabiwa e preso Dumbia. Purtroppo per la Roma c'è stato poi l'infortunio di Turbe, allora ha dovuto correre ai ripari con un'operazione Ibarbo, comunque sono 2 milioni e mezzo per il prestito oneroso e 12 milioni e mezzo per il diritto di riscatto su un giocatore che potrebbe essere un crack in futuro, più l'innesto di Spolli, per cui diciamo, se non ci fosse stata questa necessità magari si poteva dare l'Oscar ancora una volta a Sabatini. Ci sono state anche piccole operazioni su giovani di prospettiva, in questo la Roma è bravissima. E per quanto riguarda gli Oscar mi fermo qui, poi sulle milanesi facciamo un altro discorso. Ugo, Reggio Emilia. Sì, buonasera. Buonasera. Io concordo con il suo collega del Sole 24 Ore sul discorso della campagna acquisti. L'Inter aveva bisogno di un centrale forte. Io ho visto la partita, sono ancora traumatizzato da domenica scorsa a Reggio Emilia, e ho visto la partita, i due centrali sono inguardabili, quindi avevamo bisogno di un centrale molto forte, ma questo da tempo, da sempre. Abbiamo bisogno di un centrocampista con dinamismo, cioè alla Vidal se ce n'è, però con dinamismo e piedi, non l'abbiamo preso. Brozovic è da valutare, non l'ho mai visto sinceramente, non lo so. E avevamo bisogno di una punta che facesse veramente gol, veramente gol. Beh, Icardi ne fa. Icardi ne fa, ma ha un grosso problema Icardi. Icardi non sa tenere sulla palla. Questo è abbastanza vero. E per una punta, siccome io ho allenato anche in interregionale qualcosina, cioè una punta che non sa tenere sulla palla non è una punta, fine. Cioè lo puoi vendere come il Kovacic, e qui apro una piccola parentesi, non potrà mai essere un giocatore di calcio. Uno che guarda per terra e che non vede uno scarico a 4 metri non può essere un giocatore di calcio, e che dribbla 20 metri nella centrocampo difensiva non potrà mai essere un giocatore di calcio. Quindi perplessità sul talentino. Perplessità sui talentini che l'Inter vuol mettere in vetrina, sono i due gioielli dell'Inter per un futuro mercato. Segni il mio numero di telefono, che se vogliono consultarmi, lì c'è qualcuno che di calcio ne capisce quasi, capisce poco. Perché quando trovi un centro mediano metodista, perché l'anno scorso l'hanno fatto giocare in quella posizione lì, almeno 20 partite, che dribbla davanti alla difesa, vuol dire che di calcio non ha capito niente. Cioè, vuol dire che di calcio non lo sa fare, il calcio non è il suo gioco. Punto. Vediamo Brozovic, di cui tutto sommato è giovane, si parla bene. Allora, Ugo, lascio la risposta a Marco Bellinazzo, ma prima vi faccio sentire Mancini sul mercato dell'Inter. No, sono soddisfatto. Abbiamo detto all'inizio, il mercato di gennaio è abbastanza difficile, allora o tu hai tanti soldi da spendere per prendere giocatori che magari possono cambiare subito la squadra, oppure devi cercare di fare le cose che puoi fare. Abbiamo preso dei ragazzi giovani che secondo me possono essere buoni adesso quando si ambienteranno, ma soprattutto per il prossimo campionato. Dillo, insomma, credo che sia finito, sì, credo. Sì, no, assolutamente. No, credo. Non credo che gli svincolati, insomma, non credo che uno svincolato oggi possa cambiare o darci qualcosa, non credo questo. Allora, vi ricordo due numeri. Il primo è il numero verde 800240024 per intervenire fino alle 15:30. Il secondo è questo: l'Inter di Stramaccione ha chiuso la stagione con 54 punti, la media attuale di Mancini, un punto a partita. per la cronaca, potrebbe portare a 45-47 punti e sarebbe il peggior risultato nella storia moderna del club. Allora, mercato dell'Inter. Beh, io, l'ascoltatore è andato giù col bastone. Sì, tra l'altro spesso i tifosi dell'Inter mi accusano di avere un pregiudizio negativo nei confronti del club nerazzurro, ma insomma assolutamente non è così. Smentisci. Smentisco, anche perché per fortuna mia parlano i numeri, io non devo dare, come dire, giudizi morali, sono in quanto tali opinabili. No, io ho l'impressione che l'Inter abbia intravisto oggettivamente, come altri club, a fine dicembre la possibilità di raggiungere il terzo posto e quindi abbia fatto in quella fase all-in, come ho detto, cioè cercando di prendere giocatori importanti che potessero garantirgli una corsa alla Champions. Mi riferisco naturalmente a Podolski, Shaqiri soprattutto, assolutamente, e Brozovic, cercando di avere il minimo impatto su questo bilancio, perché per esempio ricordiamo Shaqiri, prestito gratuito con obbligo di riscatto a 15 milioni più 2 di bonus, insomma, che sarà esercitabile, sì, dovrà essere esercitato l'anno prossimo. A un certo punto i risultati però a gennaio non sono stati quelli che evidentemente Tohir si aspettava, e allora si è corso braccio corto. Si è corso un po' ai ripari per limitare l'impatto sul bilancio 2015. Lo scorso bilancio l'Inter era chiuso a meno 100, sì, e sotto osservazione della UEFA, e quindi bisognava dimostrare, quindi, di essere così l'operazione Bonazzoli? Evidentemente sì, così come i prestiti per esempio di Mbaye, di Kriin, di Laxalt, il riscatto di Duncan a 3 milioni, quello che Sunderland pare farà di Alvarez a 10 milioni, il prestito alle Studiantes di Pereira con un obbligo di riscatto dopo poche partite a 4 milioni, insomma i 15 milioni che grosso modo erano l'impatto su questo bilancio di tutte le operazioni in entrata vengono bilanciati. Chiaramente poi ci sono i 20-25 milioni che l'Inter dovrà spendere per riscattare Shaqiri, per riscattare Santon, per riscattare Podolski. È vero che è un diritto di riscatto, però prendere un giocatore così importante e mandarlo via dopo sei mesi mi sembrerebbe incoerente. Soprattutto nel caso di Shaqiri, cioè, assolutamente. Shaqiri mi sembra anche un investimento funzionale su quello che possono costruire in futuro. Per cui a questo punto diventa fondamentale il percorso in Coppa Italia e il percorso in Europa League per arrivare in qualche modo a competere in Europa l'anno prossimo, elemento che è fondamentale poi per portare avanti il piano di risanamento del club. Alberto Torino, buongiorno. Alberto, buongiorno. Sì, pronto. Pronto, sì, buongiorno. Sì, mi dica. Sì, sono qua. Eccoci, anch'io. Ah no, io volevo intervenire, intanto premetto che sono tifoso della Juve e volevo intervenire in merito a quello di cui si parlava prima, Allegri, Conte, eccetera, eccetera. La mia riflessione è questa. Io dico che i mali del Milan non erano tutti in Allegri. Per niente. Per niente. Qui, perché sembrava che lui avesse tutta questa responsabilità. Quando Allegri a luglio è venuto alla Juve, io ero fra quelli che non prevedevo disastri e cose di questo tipo. E quindi la conclusione del mio ragionamento è che è importantissimo per qualunque allenatore avere una società che ti sostiene, certo, e ti dà credibilità, certo. È la cosa fondamentale per un allenatore, secondo me, una società solida dietro e che abbia impatto sui giocatori, soprattutto nei momenti difficili, fondamentale. Io pensavo a quello che aveva fatto Allegri con la società contro, nonostante i risultati, e ho detto alla Juve, conoscendo quello che la Juve da tifoso naturalmente farà sicuramente bene. Finora le cose sono andate così. Poi sì, si compra, si vende i calciatori, le società, le cose. Però io penso che sia fondamentale, e poi in più non mi piaceva, devo dire, l'atteggiamento di Conte, sì, sempre quel lamento continuo. No, ma era una Conte è un allenatore che i giocatori li spreme assai. Allegri ha una gestione differente. Io sono d'accordo con lei al 2000%, e aggiungo anche, cosa che ho detto diverse volte, che secondo me, poi vediamo come finisce, però fino a qui è la stagione della consacrazione di Massimiliano Allegri come allenatore, perché sta gestendo la Juventus in maniera perfetta e con enorme intelligenza dall'inizio ad ora. Il futuro lo leggeremo. Sul mercato della Juve prima, non male, secondo me non male. Assolutamente, Juve, Io ritengo appunto che la Juve si sia trovata in una situazione a gennaio per cui non aveva bisogno di intervenire. tra l'altro aveva un po' di costi in aumento rispetto a quello che è il livello del fatturato, per cui non gli conveniva peraltro appunto aumentare il monte ingaggi o pesare sugli ammortamenti. Allora ha incassato la quota Gabbiadini, si è liberata dell'ingaggio di Giovinco, si è rinforzata nella rosa con De Cedi, Sturaro e Madri, e soprattutto ha riscattato Rugani a 3,5 milioni, che mi sembra insieme a Romagnoli il futuro della, del calcio italiano in difesa, sì, della, Marco, della nazionale. Prima diceva ma come avevi Immobile l'anno scorso, non l'hai preso, l'hai fatto andare via, avevi Gabbiadini quest'anno, non l'hai preso, l'hai fatto andare via. In questo momento alla Juventus serviva un giocatore in grado, c'erano delle gerarchie precise per questa stagione, alla Juve mi sembra quel tassello. Servono giocatori pronti se il progetto è quello di essere una squadra ad alto livello, chiaro, in campo europeo. Chiaro, e quindi chiaro. Evidentemente si è fatta una valutazione per cui Immobile e Gabbiadini non erano giocatori pronti per giocare a quel livello. Emanuele, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Dica, da Padova. No, stavo seguendo il discorso, forse per la Juve serviva un giocatore tipo Schürrle, ma visto i costi a cui sì, è andato Schürrle, via, Schürrle l'ingaggio via. Che ha, è un po' difficile da prendere. Lo so, però a me per lui piace molto. No, niente, mi ricollegavo al discorso fatto dall'ascoltatore di prima che diceva di allenare in interregionale. Io non alleno, però non ci vuole tanto, cioè è un po' sbagliato dire che una punta che non tiene sulla palla non può fare la punta. Trezeguet non teneva su nessuna palla, eppure ne ha messi più di 150 con la maglia secco, della Juve. È un po' secco come giudizio, però che Icardi sia un giocatore di quel tipo è vero, eh? Cioè è il bomber, lui è il bomber, cioè ha bisogno della palla sui piedi. Esatto. Così, ci sono giocatori che aiutano la manovra, ci sono giocatori che non lo fanno ma che fanno tanti gol. Bisogna costruirgli una squadra vicino. Sono molto contento del mercato della Juve, io sono juventino, anche perché, come diceva il suo collega che con lei sta conducendo, secondo me la Juve ha fatto un mercato molto intelligente. Ha chiuso per Rugani, che è un prospetto molto molto valido. Ha chiuso con Sturaro, puntellando il centrocampo, e poi soprattutto si è fatta prestare un giocatore che ha venduto per 12 milioni. Anche questo, che non è anche giovanissimo, ma questa roba qua è molto divertente. Movendo per 12 mi torno indietro in prestito. E paghiamo l'ingaggio a metà, mi sembra di aver capito. Questo non mi risulta. No, io credo che l'ingaggio da qua a fine prestito lo paghi la Juventus. Spero che lo paghi la Juventus. Altri soldini alla Juventus saranno pure rimasti. Senti, hai sentito la storia di Ederson? Sì, d'altronde sai, è vero che siamo nell'era della comunicazione, ma ogni tanto i telefonini non prendono. Ma come? Ma sei un professionista, si sta chiudendo il mercato. Ma stava dormendo, magari. E succedono queste cose. Ma vanno qui a dormire presto i calciatori. Ma che a dormire presto, i glitare. Non risponde Sade della proposta, però non risponde né a Mihajlovic, né a Osti, né a noi. Accettiamo la sua decisione, poi dopo vediamo cosa sarà dopo. La Lazio non gioca un minuto, non risponde al telefono, gli fa saltare l'affare Bergessio al povero Ferrero. Iperetta, che insomma c'è rimasto male, tra l'altro sul mercato malissimo della Sampdoria. Insomma, operazioni importantissime dal punto di vista economico. Correa 8 milioni, Muriel 10 milioni e mezzo più bonus, l'ingaggio di Gabbiadini. Ha incassato un po' da Gabbiadini, minore da Castaldello, ha preso Bonazzoli, sì, anche se c'è il diritto di riacquisto da parte dell'Inter, ha riscattato Duncan. Nell'insieme fanno circa 20 milioni di impegno finanziario, insomma, cifra più, cifra meno. Sì, sai, Ferrero ha avuto la fortuna di avere di fatto una società abbastanza leggera, liberata dai debiti, dai Garrone, e quindi in qualche modo in questo momento ha le mani libere, ha potuto magari, non so, fare un'operazione di factoring e ottenere già i soldi dei diritti TV per gli anni a venire, ma di fatto punta a raggiungere l'Europa, un traguardo che la squadra di Mihajlovic, a parte gli ultimi rovesci in campionato, ha dimostrato di poter raggiungere, insomma, come traguardo. All in blu cerchiato anche in questo caso. Massimo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta. Le volevo dire che intanto io penso che per il mercato, sono d'accordo con lei, il Napoli per me è stato, diciamo, la migliore squadra, sì, per quanto riguarda la Serie A. Vabbè, per quanto riguarda la Serie B io tifo Bologna, penso il Bologna, sì, quindi le volevo anche dire però che darei un 5 meno a Sabatini, che quello lo leggiate tanto, perché ieri ho avuto la fortuna di finire un po' prima il lavoro e mi sono collegato alla televisione, è cominciato il torneo di Viareggio, mm, e ho visto Milan-Ajax e c'è un centravanti di 16 anni che è entrato nel secondo tempo e gioca nell'Ajax, sì, scuola romanista, sì, che praticamente ha cambiato la partita. L'Ajax era in svantaggio di 1-0, è entrato lui e praticamente l'Ajax ha vinto 2-1. Ah, ed è fortissimo, un giocatore, sì, di 16 anni. Lo so, Massimo, però siamo al torneo di Viareggio, dove Filippo Galli ha peraltro detto, lo sentiremo nei prossimi giorni, l'amico Filippo Galli ha detto: no, noi qui non torniamo più, Campacci, non si può giocare in questo modo, eccetera. Non le saprei dire su questo centravanti dell'Ajax scuola Roma, però stiamo parlando del torneo di Viareggio, non del Massimo. Adesso non sono inedite vicende in cui giovani italiani emigrano, anzi, a cercare fortuna, soprattutto in Premier. Secondo me è un circolo virtuoso questo. Mi piacciono i giovani italiani che vanno all'estero a giocare, a imparare e a stare. A proposito di estero, Carlo, ci segnalavo e mi sorprendeva constatare come due operazioni di grande livello a livello finanziario siano state messe a segno dal Guangzhou, la squadra Guangzhou di Lippi e ora di Cannavaro. Gina e Diamanti via, hanno ancora soldi? Assolutamente, hanno speso, pensa, 15 milioni per Goulart dal Cruzeiro e 11 milioni per Alan dal RB Salisburgo, che sarebbe appunto Red Bull Salisburgo, due brasiliani di cui evidentemente sentiremo parlare, ma che sono andati in Cina. 15 milioni per esempio è un livello massimo per l'Italia, se pensiamo che l'operazione di fatto realizzata più costosa è Gabbiadini, forse certo. Shaqiri poi sarà comprato da 15 milioni per l'Inter, ma l'anno prossimo, però, destro l'anno prossimo, intanto a gennaio spendono signor Guangzhou i cinesi, per questi due giocatori, e anche Lalali ancora 9 milioni per Everton Ribeiro dal Cruzeiro. Volevano Cassano, non possono aver Cassano, hanno preso Everton Ribeiro dal Cruzeiro a 9 milioni. Cassano va lì quando smette di correre, figurati un po', ha smesso di correre nel 2001-2002. Andrea Reggio Emilia, poi dobbiamo chiudere. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io sono tifoso del Torino, telefono per fare i complimenti al mio presidente Urbano Cairo. Non lo sto prendendo in giro, infatti, volevo chiederglielo. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo il presidente per il Torino, perché come ha detto Ibrahimovic nell'ultima intervista che ha rilasciato in Francia, noi tifosi torinisti prima non eravamo abituati a mangiare caviale, quindi la situazione attuale diciamo che è molto meglio di come eravamo abituati, come stavamo voglio dire, ma è così ed è oggettivo ed è nei numeri. Il Torino nelle ultime, dicevo prima, nelle ultime 11 partite è primo in classifica, è quello che ha fatto più punti da quel gol di Pirlo allo spirare del derby, è quello che ha fatto più punti. 30 secondi, volevi aggiungere qualcosa? No, sarà sul Milan, un'altra notizia di mercato, il Milan è tornato a spendere non nell'immediato, ma gli impegni finanziari per i riscatti ammontano quasi 20-25 milioni, con qualche colpo di prospettiva, destro Bocchetti, Antonelli, visto che tanto i tifosi si lamentano, no, sui parametri zero e sui vecchi che vengono ingaggiati dal Milan. Adesso li ha presi e poi li pagheremo per adesso quando costruiranno lo stadio nel 2018-19 al Portello, e questa la vediamo e ne parliamo insieme. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, Giorgio De Luca, nostro autore, Fabio Cantori in regia, Daniele Bonamici in redazione. Domani alle 2 qui per Tutti Convocati. La Sampdoria stava per dare Bergessio alla Lazio e poi prendere Ederson, solo che Ederson ha rifiutato il trasferimento alla Sampdoria ed è saltato anche il passaggio proprio di Bergessio alla Lazio. È saltato Bergessio?